Guardiani, la mia gratitudine risuona in ogni radice. Avete onorato la speranza della foresta. Ma il cammino è appena iniziato. Proseguite. Il mondo attende il vostro prossimo passo. La mia forza vi segue. La linfa della vita vi sia propizia.